GR24, il sole 24 ore. Oggi l'incontro fra sindacati e governo. Monti chiede a lavoratori e imprese di fare di più e agli italiani invita e dice pensare di più al bene comune. Promettono ancora proteste i lavoratori dell'Alcoa, questa mattina occupata una nave della Tirrenia. Un morto e quattro feriti ad Istanbul, in Turchia, in un attentato suicida. Questa sera di nuovo in campo la nazionale di calcio per le qualificazioni ai mondiali 2014. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Poco fa l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Monti, che ha partecipato all'inaugurazione di Milano Unica, la Fiera del Tessile, che si appunta aperta questa mattina. Le nostre decisioni in parte hanno contribuito ad aggravare la congiuntura economica, ha ammesso Monti. Solo uno stolto può pensare di riuscire a incidere su un male che dura da decenni senza causare nel breve periodo un aggravamento della situazione. Queste le parole di Monti, che ha poi parlato di uno dei mali del nostro paese. Ogni città, ogni cittadina ha rivendicato e normalmente ha avuto nel corso dei decenni la sua università, il suo aeroporto, il suo tribunale. Quali sono stati i risultati per la competitività del sistema Italia nel suo insieme, per il benessere di ciascuna di quelle città o cittadine e dei suoi cittadini? E stiamo vedendo quanta fatica occorre fare, ma la molta fatica non è un attenuante e quindi il risultato va conseguito. Casta, in un certo senso, siamo tutti noi cittadini italiani che ci siamo abituati a dare la prevalenza al particolare rispetto al generale, e poi ci lamentiamo perché il generale di cui siamo parte funziona male. In vista dell'incontro di oggi pomeriggio con i sindacati, ecco ancora le parole di Monti. Ci aspettiamo che, così come il governo sta facendo bene o male, io credo al meglio che possa in queste circostanze, ciò che è così importante per le imprese, cioè migliorare i fattori di contesto, noi ci aspettiamo, vorrei dire esigiamo a nome del paese, dei cittadini e dell'interesse generale, che imprese e sindacati riescano a fare qualche cosa di più con il loro diretto e congiunto impegno. Queste dunque le parole di Mario Monti, e ricordiamo oggi pomeriggio c'è questo incontro con le parti sociali, i sindacati in particolare. Intanto continuano le proteste dei lavoratori dell'Alcoa di Porto Vesme in Sardegna, nonostante fra gli esperti sia condivisa l'opinione che la permanenza di un impianto di questo genere in Italia sia quasi impossibile visto gli alti costi dell'energia. I lavoratori di ritorno da Roma hanno occupato questa mattina a Olbia una nave della Tirrenia. Faremo tutte le azioni necessarie per evitare la chiusura degli impianti di Porto Vesme. Con queste parole d'ordine, 350 lavoratori dell'Alcoa hanno occupato per due ore il traghetto Tirrenia che li trasportava da Civitavecchia ad Olbia. Gli operai, dopo aver fatto scendere i turisti, si sono rifiutati di lasciare la nave perché dall'incontro di ieri hanno detto al Ministero per lo Sviluppo Economico non sarebbe stato fatto nessun passo avanti, come spiega Bruno Usai, sindacalista della Fiom. È una situazione di alta tensione, perché ieri siamo tornati da Roma e senza nessun risultato praticamente, perché allungare l'agonia della nostra partenza non è certamente una soluzione. E crediamo che forse non abbiamo fatto il tutto perché il governo prenda seriamente a cuore il nostro problema. I lavoratori pensano ora ad altre iniziative di protesta. Il governatore della Sardegna, Ugo Capellacci, ha promesso di prendere già oggi contatto con la Glencore, uno dei gruppi interessati a rilevare gli impianti sardi. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Piazza Affari, sentiamo come vanno i mercati in questa giornata che gli esperti probabilmente definiscono interlocutoria. Deborah Rosciani, buongiorno. Possiamo anche dire gli investitori rimangono alla finestra, utilizziamo i termini che ci piacciono di più, ma in ogni caso Milano e Madrid realizzano le peggiori performance in Europa e cedono circa un punto percentuale. Siamo in attesa domani del verdetto della Corte Costituzionale tedesca sulla legittimità del fondo salvastati. mercati, ma non solo, perché i mercati aspettano anche l'annuncio di nuove misure a sostegno dell'economia americana da parte della Federal Reserve, che si riunisce domani e giovedì, mentre i riflettori restano sempre puntati sulla situazione spagnola e sulla possibile richiesta di aiuti all'Europa. Oggi calo netto per il settore del lusso, un settore del quale non si parlava da un po'. C'è un profit warning, un allarme utili di Barbary's a Londra, meno 18%, e questo comporta lo scivolone anche di tutti gli altri titoli del settore nelle altre piazze europee. Ad esempio a Parigi, LVMH, Louis Vuitton perde il 4,5%, Pinot Pretemps, che controlla Gucci, meno 4%, e anche a Piazza Affari, che perde anzi lo 0,8% adesso complessivamente, Salvatore Ferragamo meno 5%, TOS meno 4%. Lo spread fra BTP e Bund stamattina si era svegliato di pessimo umore, è arrivato di nuovo a 378 punti base, adesso è tornato a scendere e siamo a 360. Il rapporto di cambio gravita tra euro-dollaro ancora su 1,28, leggermente al di sotto anzi di questa soglia, siamo a 1,27,92, e direi che per ora è tutto. Grazie Debora, buon lavoro e vista l'ora anche buon pranzo. Adesso parliamo ancora di mercati, dei titoli di Stato e dei bond cosiddetti corporate, perché diversi grandi fondi di investimento, secondo varie fonti, sono tornati ad acquistare titoli di Stato di Italia e Spagna sulla scia del piano di possibili interventi della Banca Centrale Europea. E approfittando del buon momento dei mercati, anche molte imprese si finanziano sul mercato dei capitali con emissioni di bond invece di rivolgersi ai prestiti bancari. Ma il successo di queste operazioni non è in realtà una buona notizia per il nostro paese. Sentiamo i particolari in questo servizio. Le emissioni obbligazionarie di imprese e banche italiane in questi giorni sono da un lato una prova di forza, dimostrano che le aziende italiane riescono ancora a finanziarsi sul mercato dei bond, ma dall'altro sono anche una prova della grande debolezza dell'Italia nel suo complesso. Tutti i bond emessi in questi giorni pagano infatti tassi di interesse doppi rispetto ai debiti analoghi di società tedesche o francesi. Un esempio, il bond decennale di Snam paga un tasso di interesse del 5,3%, tanto confrontato con il 2,42% della tedesca RWE e con il 2,87% della francese DF. Il problema è che l'handicap dello spread si somma ai mille altri che affliggono da sempre le imprese italiane. Da noi, stima Société Générale, il gas costa 5 euro per megawattora in più rispetto alla media europea, l'elettricità è la più cara, le tasse sono opprimenti, molto più che in altri paesi, per non parlare del costo della burocrazia e della giustizia. Insomma, o si risolvono in fretta i problemi strutturali e il nodo dello spread, oppure in pochi anni il Made in Italy andrà definitivamente al tappeto. Moria Longo, Radio 24, sono le 4 ore. Tra poco, tra circa 20 minuti, Italia in controluce andrà in diretta da Bari, dove è in corso la Fiera del Levante. L'approfondimento di oggi è dedicato alle primarie del centro-sinistra. Il candidato più chiacchierato resta Matteo Renzi, che questa mattina, ospite di 24 Mattina, ha parlato a Radio 24 e in particolare lo sentiamo sulle priorità da affrontare in caso di vittoria alle primarie e alle elezioni politiche. Innanzitutto modificare totalmente l'impostazione dello Stato, perché la burocrazia che oggi avviluppa e opprime anche gli enti pubblici, non soltanto i cittadini, è un elemento non solo di mancanza di efficienza, ma anche un elemento di freno economico. A me capita di avere delle aziende che non investono nel mio territorio soltanto perché hanno paura dei tempi drammatici della burocrazia. Intanto questa mattina Italia dei Valori, Sinistra Ecologia Libertà, Cofferati, altri sindacalisti, esponenti della società civile e alcuni giuristi hanno depositato alla Corte di Cassazione due proposte di referendum. I quesiti chiedono l'abrogazione della deroga alla contrattazione collettiva e il ripristino del vecchio articolo 18 sulla reintegra. Non ci sono solo notizie dal centro-sinistra, continua ad essere piuttosto movimentata la situazione all'interno del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo ha scritto questa mattina sul suo blog su internet: «Io non caccio nessuno, ma Favia non ha più la mia fiducia». Il punto di Stefano Folli. Con estrema lentezza il pachiderma della legge elettorale ha ripreso a muovere i suoi passi verso un approdo che però non è ancora vicino. Troppe difficoltà, troppi aspetti da chiarire, soprattutto all'interno del Partito Democratico, a cominciare dalla questione del premio al partito vincitore o alla coalizione. Una cosa è chiara, si va verso un modello neoproporzionale. Gli ottimisti lo paragonano al sistema tedesco, che certo ha una sua dignità e dimostra da decenni di funzionare bene. ma come è noto noi non siamo la Germania e infatti i pessimisti obiettano che è meglio non farsi illusioni, avremo soltanto un porcellum appena riverniciato, vedremo. Quel che ormai è abbastanza certo è che la legge sarà cambiata entro l'anno, sulla base di un'intesa di fondo sostanziale fra i tre maggiori partiti, forse la Lega, e con l'opposizione dell'Italia dei Valori e dei Grillini, ma soprattutto di quell'ala del PD, i Prodiani, che non accetta di vedere archiviata la stagione del maggioritario. E in tutto questo che fine faranno le primarie? Domanda legittima, visto che Renzi è un prodotto tipico della stagione maggioritaria, ma la risposta al momento non c'è. Una notizia che riguarda il mondo della scuola. L'Italia ha i professori più anziani dell'area OCSE. Secondo un nuovo rapporto presentato questa mattina, nel nostro paese il 58% dei docenti di scuola secondaria ha più di 50 anni e solo il 10% ne ha meno di 40. L'Italia è anche al penultimo posto tra i paesi industrializzati per la spesa nella scuola, che è pari al 9% del totale della spesa pubblica contro una media OCSE del 13%. Il nostro paese è al 31° posto su 32 paesi. Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria questa mattina di fronte a un commissariato di polizia a Istanbul in Turchia. L'edificio è in parte crollato e al momento si contano un morto e 4 feriti. L'ex premier francese Dominique de Villepin è in stato di fermo a Parigi, dove la polizia chiede spiegazioni sul suo ruolo rivelato dal quotidiano Le Monde il 7 dicembre scorso in una vicenda di corruzione legata all'associazione alberghiera Relais et Chateau, di cui de Villepin era stato presidente fino al gennaio 2006. Una notizia che arriva da Napoli riguarda la Guardia di Finanza, che ha sequestrato, pensate, oltre 400 kg d'argento e 20 kg d'oro in lingotti e monili, probabilmente destinati al mercato nero. 4 persone sono state denunciate. I preziosi erano nascosti su 2 autovetture di grossa cilindrata appena sbarcate nel porto di Napoli. Iniziamo questa seconda parte del giornale radio di GR24 dalla notizia sulla quale purtroppo non ci sono molti sviluppi, sull'agguato di ieri sera nel pieno centro di Milano, quando 2 uomini in moto nella zona di Porta Romana hanno ucciso Massimiliano Spelta, imprenditore di 43 anni, la compagna dominicana di 22 anni. La figlia è rimasta fortunatamente solo lievemente ferita, una piccola di 2 anni, questa mattina è stata affidata alla sorella dell'uomo. Si scava nella vita di Massimiliano Spelta per cercare di capire i motivi dell'agguato che ieri sera nel centro di Milano è costato la vita all'imprenditore 43enne e alla sua compagna di 21 anni, Carolina Ortiz. Gli investigatori della squadra mobile per ora non trascurano alcuna pista, ma le modalità dell'esecuzione sono quelle della criminalità organizzata. Spelta passeggiava con la sua compagna in una via centrale di Milano quando intorno alle 8 di sera è stato raggiunto da 2 uomini con casco integrale a bordo di uno scooter. Uno dei killer è sceso e ha scaricato almeno 3 colpi di pistola sull'imprenditore, uccidendolo sul colpo. Poi ha inseguito la donna e l'ha freddata con un proiettile alla nuca. È rimasta miracolosamente illesa, invece, la figlia della coppia, di appena 2 anni, che era in braccio alla madre. Spelta era incensurato e fino ad alcuni anni fa aveva gestito un'attività di distribuzione di integratori alimentari alla periferia di Milano. Non c'erano ombre evidenti sulla sua vita. L'esecuzione in stile mafioso, in pieno centro, a Milano, rilancia il problema della sicurezza in una città dove la criminalità organizzata e non gestisce attività milionarie. Angelo Mucuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre a Milano questa mattina sono state arrestate 37 persone presunti affiliati ai clan dell''Ndrangheta in Lombardia. I provvedimenti riguardano i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, usura ed estorsione, tutti reati aggravati dalle finalità mafiose. Un gruppo di 31 clandestini pakistani è stato rintracciato dalla polizia municipale e dai carabinieri a Leuca in Puglia. Le procedure di identificazione si sono svolte nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Altri 27 immigrati sono arrivati a Pozzallo in provincia di Ragusa dopo essere stati soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza. Un altro gruppo di 11 è stato salvato dopo essere rimasto aggrappato per 2 giorni ai tubolari del loro gommone semi affondato. Sappiamo che la maggior parte dell'immigrazione clandestina arriva con visto turistico senza poi fare ritorno nel proprio paese, ma le vie d'acqua rimangono una strada per molti extracomunitari. Ecco la situazione dal tenente colonnello della Guardia di Finanza di Taranto, Cristino Alemanno. Gli scenari sono diversi in Italia. c'è uno scenario pugliese, c'è uno scenario siciliano, c'è stato e c'è in parte uno scenario sardo, però ognuno con caratteristiche e fenomenologie assolutamente tipiche. Lei tenga conto che già lo scenario siciliano è assolutamente particolare perché ha, diciamo, è dicotomico, c'è diciamo, provenienze dalla Tunisia e normalmente in quel caso sono cittadini tunisini, ci sono però provenienze per esempio da Libia oppure dal confine tra Tunisia e Libia, normalmente si tratta di nordafricani, cioè provenienti dalla zona subsahariana, quindi ovviamente anche la tipologia proprio di soggetto è completamente diversa. Nell'un caso si può trattare a volte di rifugiati politici, di profughi, nell'altro caso spesso si tratta semplicemente di cittadini tunisini che provano il viaggio della speranza. Sono le 13:19 minuti, adesso chiudiamo questa edizione di GR24 con lo sport. Buongiorno a Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Enrico, ciao a tutti. Allora iniziamo dal tennis, perché questa notte, se non sbaglio, sono conclusi gli US Open. No, non sbaglia affatto, e tra l'altro insomma è anche la notizia più recente, visto che la partita è durata molto tempo, e quasi 5 ore di gioco, e si è conclusa verso le 3:30 del mattino. Ebbene, Andy Murray, che era il calimero del tennis mondiale, almeno di quelli forti, cioè quello che non aveva mai vinto un torneo del Grande Slam, si è tolto questa scimmia dalla spalla battendo Novak Djokovic. Lo scozzese ha vinto appunto con il punteggio di 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2, quindi una partita bellissima e interminabile. E Murray entra nei Fab Four, cioè nei quattro grandi, i primi quattro della classifica mondiale, come sappiamo Federer, Djokovic, Nadal e appunto Murray. L'unico di questi a non aver mai vinto uno slam era proprio lo scozzese. Adesso ce l'ha fatta, Enrico. Senti Carlo, io nel titolo del nostro giornale radio però ho inserito la nazionale di calcio, perché questa sera c'è una nuova partita per le qualificazioni ai mondiali 2014. Sì. Dove si gioca, contro chi giochiamo? Dunque giochiamo a Modena contro Malta. Beh, il risultato non è in discussione, lo possiamo dire tranquillamente, perché sennò domani succede il cataclisma. È l'avversario più morbido del girone, è una partita da vincere, possibilmente cancellando le brutte impressioni che la nazionale ci ha lasciato dal primo impegno, cioè quello di Sofia di venerdì, quel 2-2 un po' risicato. Oggi a Modena tutti sperano sia la festa del gol, poi Prandelli dice è importante giocare bene, importante sarebbe abbinare le due cose. Tra l'altro esperimenti per il CT, gioca praticamente l'attacco della Roma con Osvaldo confermatissimo dopo la doppietta di Sofia e Mattia Destro, che è il giovane attaccante più interessante, più chiacchierato insomma in senso positivo di questo inizio di stagione. Alle loro spalle ci sarà Diamanti, quindi formazione a trazione offensiva per Malta questa sera 20:45 a Modena, ovviamente partita da vincere, ma questa è una banalità, Enrico. Certo. Grazie Carlo Genta, che risentiremo anche più tardi alle 14 nel nostro pomeriggio sportivo. Tutti convocati, il nuovo programma di Radio 24. Chiudiamo questa edizione di GR24 però con un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa, relativa al duplice omicidio avvenuto ieri sera a Milano. Secondo appunto notizie di poco fa, 37 grammi di cocaina, altre agenzie dicono 47, ma questo non è importante, sono stati trovati dagli investigatori nell'appartamento di via Mecenate di Massimiliano Spelta, l'imprenditore di 43 anni appunto ucciso ieri sera in strada in centro a Milano. La droga era in un sacchetto nascosto tra gli effetti personali della coppia. E stanno naturalmente interrogando gli inquirenti i testimoni. Secondo una notizia di poco fa, una signora avrebbe preso il numero di targa della moto da cross usata dai killer che hanno sparato all'uomo e alla sua compagna ieri sera. Bene, tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo tra poco al GR Spettacoli e poi, come vi dicevo, all'appuntamento in diretta dalla Fiera del Levante di Bari con il nostro approfondimento di Italia in controluce dedicata alle primarie del centro-sinistra. Edizione curata e condotta da Enrico Paglierini, grazie anche a Carmelo Lauricella. Il GR torna alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Voglio essere una Miss che non è solo bella ma sa anche ballare. Fedele al principio per cui bisogna dimostrare di non essere solo avvenenti, così la siciliana Giusy Buscemi, 19 anni, la nuova Miss Italia. Originaria di Mazara del Vallo, attende i risultati del test d'ammissione alla facoltà di medicina, ma racconta di voler fare l'attrice. Saranno la brianzola Katia Follese e il genovese Davide Paniate a condurre la prossima edizione di Zelig Off, il laboratorio da cui poi lo spettacolo Zelig pescherà i comici del programma. Zelig Off andrà in onda in seconda serata su Italia 1 dal 17 settembre nella storica sede dell'omonimo locale milanese. Il cinema, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha telefonato al regista Marco Bellocchio per comunicargli di aver apprezzato il film Bella Addormentata. A rivelarlo davanti allo stesso regista è stato ieri sera l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Stefano Boeri. E anche Mario Martone entra nella polemica post-verdetto della Mostra del Cinema di Venezia sul bottino magro per il cinema italiano. Non è il mancato premio all'Italia che irrita, ha detto, ma la lezione di cinema che a quanto pare è stata espressa dentro la giuria da chi avrebbe definito provinciali i nostri film, e questo non è accettabile. Intanto l'attenzione del cinema internazionale si è spostata a Toronto. Qui è stato presentato un nuovo film basato sul romanzo di Salman Rushdie, I figli della mezzanotte, diretto dalla regista indiana Deepa Mehta. Il film però potrebbe non uscire in India. Avrebbe difficoltà a trovare un distributore perché il romanzo sarebbe critico nei confronti dell'ex primo ministro Indira Gandhi. A Roma intanto è stato presentato Ella della regista polacca Malgorzata Szumowska, considerata tra i migliori nuovi talenti europei. Est-ce que vous pensez que vous le faites que pour l'argent? C'est pas du tout ce qu'on croit, hein, c'est pas... Au bout d'un mois à Paris, j'avais un super appart. Juliette Binoche è Anne, una giornalista francese di un settimanale femminile che si ritrova improvvisamente impegnata in una ricerca per scrivere un articolo sul fenomeno della prostituzione. Il film, passato al Festival di Berlino non inosservato, esce in sala il 14 settembre. La vie est difficile et que elles ont trouvé ce grâce à internet aussi un moyen de La vita è difficile, spiega Juliette Binoche. Queste ragazze hanno trovato grazie a internet un modo di fare denaro facile, ma tutto questo sembra facile solo in apparenza e credono di smettere quando vogliono, ma non è sempre così. Siamo tutti un po' responsabili di questa situazione. Il teatro, presentata ieri a Milano la nuova stagione del Teatro Manzoni. Tra i debutti milanesi, quello della coppia formata da Enzo Iacchetti e Marco Columbro con Il Vizietto, nella versione musical di Jerry Herman e Harvey Fierstein per la regia di Massimo Romeo Piparo. La commedia sarà in scena dal 4 dicembre al 1 gennaio 2013. Marco Columbro. Dovremmo non far brutta figura. Io, che interpreto la parte di che fu del grande Tognazzi, di Renato, io sempre ho già, quando feci Tuzzi, addirittura c'era Dustin Hoffman dietro di me, per cui, e per fortuna andò molto bene, fu un grande successo, quindi spero che anche questa volta mi porti fortuna. Le grandi sfide che ho sempre accettato le accettate con la mente sgombra e con grande cuore, quindi farò lo stesso questa volta. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.